Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, la gola già messa e compromessa in questi giorni dopo la partita che abbiamo commentato in diretta con Carlo Genta, Oscar Giannino fino a pochi minuti fa, è ulteriormente peggiorata, ma chi se ne frega della mia gola. Andiamo invece sui temi di questa giornata economico-finanziaria, fermo restando che avremo, come già annunciato, la poco invidiabile classifica di Focus Economia, e si salda attraverso questa cattiva abitudine di alcuni, ci mancherebbe, con il tema del calcio. Fra poco scopriremo perché improvvise malattie e permessi sindacali proprio in occasione della partita. Parleremo anche del resto. Oggi la borsa ha un netto recupero più 3,23%, l'indice FTSE MIB arriva a 16.880 punti, poi puoi parlare Emilia Romagna più 9,30%, Unicredit più 7,90%, Unipol più 6,30%, Anima Holding più 6, cito anche Saipem che guadagna il 6,5%, e poi il 5,60% lo guadagna Monte dei Paschi, il 5,30% CNH Industrial, il 4,60% Telecom Italia, il 4,5% il rialzo di Moncler, il 4,30% quello di Unipol Sai, il 4,20% quello di Intesa San Paolo, il 4% il rialzo di Mediobanca e di Mediolanum, il 3,90% lo guadagna anche Exor, il 3,30% il rialzo di Generali, Eni più 3%, Ferragamo più 2,80 come Mediaset. Non c'è nulla di negativo, e parleremo di borsa, nel senso che anche l'euro è tornato leggermente a rafforzarsi. Milano è decisamente la migliore, nel senso che il rimbalzo bancario, così come nelle ultime sedute invece i cali delle banche facevano peggiorare Milano rispetto alle altre borse europee, oggi vale l'esatto contrario. Milano infatti guadagna 3,16 mentre Parigi lo 0,90, Francoforte lo 0,70, Londra più 1,33%. Volete sapere se ci sono anche effetti, ahimè, della morte, dell'assassinio della deputata inglese? Purtroppo c'è chi commenta e fa notare che, con un ragionamento assolutamente cinico, a mio avviso anche improprio, ma va riferito, c'è chi dice: dopo quello che è accaduto ieri in Gran Bretagna aumentano le possibilità che che vincano i Remain in Unione Europea, e quindi chi vuole restare in Unione Europea e perda la Brexit. È un ragionamento, oltre che cinico, a mio avviso anche avvilente, perché mi piacerebbe poter commentare un incremento dei voti a favore di chi vuole restare nell'Unione Europea sulla base di altri motivi ben più seri e non così tragici. Comunque, 349, dicevo, 238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Le altre notizie di cui ci occuperemo, oltre alla classifica, avremo come sempre la startup e poi la giornata più importante del forum Russia-Italia, che è il forum in realtà internazionale della Russia, ma dove l'Italia è paese ospite d'onore a San Pietroburgo. Ripeto, ci sono 10.000 imprese di tutto il mondo, hanno fatto un calcolo, praticamente 8.000 miliardi di dollari, più di 2.000 giornalisti accreditati, 120 paesi partecipanti, oltre 400 le società italiane presenti. E ieri abbiamo raccontato degli accordi firmati o le lettere di intenti dal controvalore di 1.400.000.000 complessivamente. Oggi parleremo anche dell'incontro tra il premier Renzi e il presidente russo Vladimir Putin, il quale ha detto: non vorremmo arrivare a una nuova guerra fredda, nell'auspicare però la evoca. Rapidamente adesso però le altre notizie, in breve. Allora, per quello che riguarda le altre notizie di carattere internazionale, è interessante il fatto che la Apple abbia infranto un brevetto in Cina, e Pechino, come controrisposta, cosa ha fatto? Ha sospeso le vendite di iPhone 6, iPhone 6 e 6S nelle città in tutta la Cina. Il reporter Wall Street Journal, praticamente il design dello smartphone dell'Apple è troppo simile a quello di uno smartphone cinese e infrange un brevetto detenuto dal cinese Shenzhen Baili per lo smartphone 100C. Devo dire che questo ha avuto una ripercussione, come era immaginabile, anche sull'andamento di Apple in borsa, perché ha perso quasi il 2%. Allora, veniamo all'Europa. Via libera anche alla seconda tranche di aiuti per la Grecia. Il fondo salva stati, che si chiama ESM, ha approvato l'esborso di 7 miliardi e mezzo di euro dopo, e quindi una sottotranche dei 10 miliardi e 300 milioni approvati dall'Eurogruppo il mese scorso. La seconda parte di questa tranche arriverà in seguito. I 7 miliardi e mezzo serviranno a servire per pagare il debito e gli arretrati dello Stato. Il dato, veniamo in Italia, il dato sul lavoro, a dimostrazione che il problema non è il salario percepito dai lavoratori in Italia, ma è casomai il cuneo fiscale, cioè quanto costa un lavoratore all'azienda e quanto ha effettivamente in busta paga. E poi, tema di cui abbiamo molto ragionato in questi giorni, la produttività aziendale. E da lì la proposta, per esempio, di Confindustria di arrivare a una contrattazione di secondo livello, come avviene in Germania, in cui si leghi l'aumento retributivo all'aumento della produttività, e quindi che valga di fabbrica in fabbrica a seconda di com'è la produttività di quella fabbrica. Dicevo, oggi a conferma che il tema non è la retribuzione oraria in questo paese, lo scopriamo, tra virgolette, dai dati sui primi tre mesi del 2016. Dove la retribuzione oraria in Italia è diminuita dello 0,5% rispetto allo stesso periodo del 2015, mentre nel resto d'Europa in media è aumentata dell'1,7% a livello di un anno prima. L'Italia è in controtendenza anche per l'intero costo del lavoro, cala dell'1,5%, mentre in Europa aumenta dell'1,7%. Questo dovuto soprattutto ai costi non salariali, e quindi che cos'è che ha avuto un'incidenza? Beh, lo sgravio contributivo sui neoassunti, quello che valeva dal 1 gennaio del 2015 fino al 31 dicembre, che vale anche quest'anno ma in forma più ridotta, non fino a 8.000 euro ma fino al massimo 4.000 euro per i nuovi assunti a tempo indeterminato. Comunque su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore oggi, a firma del vice direttore del Sole 24 Ore Salvatore Padula, e ricordo trasmessi sempre anche su Radio Dimensione Suono. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Come sappiamo, il governo sta studiando un meccanismo per consentire il pensionamento anticipato rispetto alle regole ordinarie per la pensione di vecchiaia. Si potrà scegliere di andare in pensione fino a 3 anni prima, ma con un assegno ridotto. Vedremo a breve i dettagli tecnici, parametri che consentiranno di calcolare i costi effettivi di questa soluzione. Costi che varieranno in relazione al numero di anni di anticipo, al livello della pensione e anche alla condizione soggettiva di chi lascia in anticipo. Qualcuno lo farà volontariamente, qualcun altro magari perché ha perso, sta perdendo il lavoro. Ecco, ieri però è arrivata una notizia che ha allarmato un po' tutti, un documento dell'Eurogruppo che lancia un monito a tutti i paesi sulla necessità di tenere sotto controllo la spesa previdenziale. La coincidenza temporale tra questo richiamo dell'Europa per limitare i pensionamenti anticipati e il lavoro del governo italiano impegnato nel definire le modalità per rendere questo pensionamento più flessibile ha fatto sorgere il sospetto che quel messaggio fosse rivolto proprio all'Italia, il che sarebbe davvero strano. Primo, perché l'Italia in ambito europeo ha fatto pochi anni fa una riforma delle pensioni molto severa, troppo severa secondo alcuni, che continua a contribuire al contenimento della spesa pubblica. In secondo luogo, perché il meccanismo destinato a introdurre più flessibilità sulla pensione funzionerà grazie a un sistema di prestiti da banche e assicurazione, e quindi con costi praticamente molto ridotti per lo Stato. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. We'll be right back. La classifica della settimana. Sì, poi parleremo anche di altre notizie. Cito una: il ministro Padoan che su Unicredit, devo dire, si aggiunge al coro chi definisce inaccettabile la gestione del passaggio dal vecchio ministro delegato, già esautorato, resta di interim, Federico Ghizzoni, e l'assenza di un nuovo ministro delegato. Ha detto oggi Padoan: auspico che ci sia più rapidamente possibile la scelta di un ministro delegato per Unicredit, ci sono nomi assolutamente all'altezza. Naturalmente questa è una scelta da parte degli azionisti, ma mi auguro che la facciano in fretta. Più tempo passa, più c'è un elemento di debolezza. Ma andiamo alla nostra poco invidiabile classifica, dove, voglio dire, partiamo dal basso. Mi ha scritto subito in tema di scioperi un direttore del controllo di volo: spero che non citerete noi perché lo sciopero l'abbiamo indetto a maggio. Dov'è che adesso la riprendo? Sì, la tentazione era forte, perché nel senso i controlli di volo a Fiumicino hanno scioperato dalle 13 alle 17, 78 voli cancellati, proprio in coincidenza con la seconda partita degli azzurri gli europei. Le sigle sindacali sono Unica e Licta, 78 voli cancellati. Le due sigle sindacali si sono viste ieri dalla Regione al TAR del Lazio, a cui avevano presentato ricorso dopo il differimento del Ministero delle Infrastrutture relativo all'agitazione all'Italia. Perché lamentava il Ministero lo scarso preavviso in cui si è avuta la notizia dello sciopero. All'Italia rende noto infatti di aver preso contatto con i passeggeri interessati e ha offerto soluzioni alternative di viaggio. Un controllo di volo mi dice: guardate che questo sciopero l'avevamo deciso già a maggio. Sì, faccio notare che appunto l'Italia lamentava lo scarso preavviso, ma insomma, diciamo che l'avete già deciso, che forse potrete fare in un altro momento, ma vabbè, ma non è questo, perché vorrei andare al quinto posto, partendo dalla cosiddetta società civile, su cui ieri mi sono già infervorato, e devo partire dalla Sicilia, perché l'Italia è un paese molto lungo, per carità, però è inutile girarci attorno, non si capisce perché in questo paese ci siano aree geografiche in cui la raccolta differenziata, visto che poi si paga un servizio ed è un elemento anche di civiltà, oltre che di ecologia economica, avviene a tassi del 48, 50, 60, 70%, anche in città grandi, per cui io capisco la differenza tra città piccola, il paesino e la città grande, anche nelle città grandi, a Milano è vicino al 50% la differenziata, poi, e qui non c'entra solo la regione Sicilia, non c'entrano i singoli comuni, c'entra lo spirito civico di alcuni siciliani, ahimè, devo dire in alcuni casi, in alcune realtà, la maggior parte di alcuni siciliani. Perché? Mi spiegate com'è possibile che ci siano ben 52 comuni in Sicilia in cui la raccolta differenziata non arriva all'1%, cioè vuol dire niente, né carta, né plastica, né umido, niente. Il più virtuoso, però si può anche in Sicilia, perché in provincia di Catania, a Licodia Eubea, spero di pronunciarlo bene, si arriva a fare quasi il 70% di raccolta differenziata. Ci sono 10 comuni, tutti nel Messinese, Capizzi, Gualtieri, Sicaminò, Mazzara Sant'Andrea, Meri, Monforte San Giorgio, Motta d'Affermo, San Pietro Patti, Santa Lucia del Mela, Saponara e Valdina, in cui non si arriva all'1%. E voi potete dire: vabbè, finché è così sono piccoli comuni. No, perché c'è un'ordinanza rifiuti di carattere emergenziale firmata dal Presidente della Regione Sicilia Rosario Crocetta, dopo che il Ministero dell'Ambiente ha autorizzato la proroga di 6 mesi delle discariche in regola. Ora, ci sono anche i capoluoghi di provincia, perché se Trapani è il più virtuoso, si fa per dire, perché arriva al 21%, cioè meno della metà della media nazionale, Ragusa arriva al 17%, Agrigento al 14%, e tutti gli altri capoluoghi di provincia, quindi non sono piccoli paesini siciliani, hanno dati imbarazzanti. Siracusa, la raccolta differenziata non arriva al 5%, Messina ed Enna sono al 7,6%, Palermo è all'8,3%, Catania al 9%. Ora, abbiate pazienza. Si può dare la colpa alle municipalizzate della raccolta dei rifiuti, per carità, si può dare la colpa ai comuni, ma qui c'è anche una responsabilità degli abitanti di questi paesi. Fare la differenziata è una rottura di scatole, siamo d'accordo? occorre metterci un po' di attenzione, portare giù i sacchetti nei diversi bidoni, è una rottura, è molto più facile buttare tutto in un... Perfetto, ma sei un incivile, quindi non ve la prendete sempre con l'amministrazione. In questo caso c'è un tasso di inciviltà nei cittadini, nella maggior parte dei cittadini di queste città, punto e basta. Mi dispiace per il 9% a Catania, l'8% a Palermo, l'8% a Tarisetta, il 7% dei messinesi e degli abitanti di Enna e il 4% di siracusani corretti. Tutti gli altri, invece che accampare come sempre scuse, iniziano a fare la differenziata e non rompano le scatole, perché non è possibile che in alcune parti, per fortuna la maggioranza del paese, ci si mette di buzzo buono a compiere un atto di civiltà oltre che di ecologia economica, va bene? Perfetto. A Roma purtroppo, abbiamo visto chi mi scrive, anche a Roma tassi totali di inciviltà e i romani iniziano ad interrogarsi sul perché hanno una città ridotta uno schifo, se non ci sia anche una responsabilità dei romani stessi e del loro menefreghismo, non di tutti ma di alcuni, perché mi sono rotto le scatole, basta col buonismo in cui no ma dai non fare, non è un problema di razzismo, è un problema di civiltà e di senso civico, va bene? Punto. Ci sono le mafie, c'è il traffico, quello che volete, però c'è anche un comportamento individuale che è inaccettabile. Andiamo avanti, se no oggi non ce la faccio più. E andiamo sempre in Sicilia, dove, e qui partiamo con la passione degli italiani per il calcio. Passione malata, si dice? Beh, malata quando va a intoccare e intaccare il tuo rendimento sul lavoro a danno dei tuoi colleghi e soprattutto di chi deve utilizzare il tuo servizio. Perché lo dico? Perché più di 100 autobus si sono fermati all'AMAT sprovvisti di aria condizionata. Ieri l'AMAT ha dimezzato il servizio a causa del caldo record. Il vicepresidente Diego Bellia dice: le vetture sono vecchie, all'interno c'erano 55 gradi, quindi un problema per gli autisti ma anche per i passeggeri. A me 55 gradi mi sembra una roba, però vabbè, prendiamo atto. Lasciare le rimesse era impossibile, vabbè. Oggi non va tanto meglio. Pensate che si sono presentati all'AMAT, al lavoro, a Palermo, 25 autisti su 200. Tutti gli altri erano assenti per malattia e permessi sindacali. E l'AMAT ha temuto anche il boom di malattie nel turno pomeridiano, quello in cui iniziava la partita di calcio. Ma vi sembra normale che solo 25 autisti su 200 possono lavorare, no? È vero, condizioni dal terzo mondo, dicono gli autisti, perfetto, ti presenti al lavoro e poi una volta che ti sei presentato al lavoro dici: io però in queste condizioni non lavoro. Questo sarebbe corretto, no che ti metti malato o in permesso sindacale. E 25 pirla invece vengono al lavoro e gli altri 175 furbetti, si fa per dire, no, se ne stanno in permesso sindacale o in malattia. Vieni al lavoro e poi contesti il fatto che non ci sono le condizioni per lavorare se nel tuo autobus manca l'aria condizionata, ok? E adesso non ho mica finito però, eh? Andiamo al terzo posto e qui c'è la mitica ATAC. Ora, noi dell'ATAC ci siamo occupati in qualunque modo possibile, anche perché la municipalizzata dei trasporti di Roma, e non posso gridare oggi perché non ho più voce, ha 12.000 dipendenti, 1,5 miliardi di euro di debito, ha fatto 80 milioni di rosso nel 2015, ha un'età media dei veicoli di 10 anni, ma soprattutto ha gli autisti che guidano meno che in qualunque altra grande città italiana, Napoli inclusa. 11 sigle sindacali, di cui alcune non raggiungono i 100 iscritti. Ha bruciato 4 miliardi e mezzo di euro negli ultimi 5 anni ed è arrivato finalmente Marco Rettighieri, dirigente generale dell'ATAC, quello che ha messo le telecamere a circuito chiuso nei depositi, e improvvisamente con le telecamere il furto di materiale è precipitato. Quindi una voce furto di materiale che costava 10 milioni di euro all'anno, 10 milioni di euro all'anno di furti di dipendenti ATAC del loro materiale, così come abbiamo raccontato il caso del consumo di gomme che improvvisamente dopo il giro di vita di Rettighieri da 1500 pneumatici a quadrimestre si è ridotto a soli 500 pneumatici. Miracolo! Improvvisamente non si consumano più le gomme. Sapete che dietro c'era la vicenda del dipendente ATAC che aveva la società che riforniva dei pneumatici ed è sotto inchiesta. Abbiamo anche raccontato dei sindacati che invece, pur essendo 11 sigle all'ATAC, io se fossi il leader di CGL, CISL e UIL azzererei i vertici sindacali dell'ATAC. Perché? Loro non solo non si accorgono del buco che l'ATAC crea, 4 miliardi e mezzo bruciati solo in 5 anni, non solo non si accorgono di 10 milioni di euro di ruberie all'anno e dello scandalo di un parco gomme che viene cambiato senza ogni logica e ragione, appunto 1500 pneumatici a quadrimestre improvvisamente adesso non servono più e siamo a 500, ma i sindacati dell'ATAC hanno un ruolo particolare perché gestiscono da sempre dei servizi molto strani nell'azienda ATAC. Ci sono almeno negli organici aziendali almeno 50 esponenti di tutti i partiti politici, ma pensate che i sindacati controllano nell'ATAC dal 1974 il dopolavoro, gestiscono cioè 18 mense, i bar e 151 distributori automatici. Nel 2016 hanno pure assunto 11 persone. Allora, ci siamo occupati dell'ATAC perché ciò nonostante i sindacati non vedono gli sprechi, gestiscono le mense, gestiscono i bar, a mio avviso anche questo dovrebbe essere eliminato, non puoi essere la controparte sindacale e poi gestire l'azienda, e dai, o fai una cosa o fai l'altra, no? Per l'elezione del 5 giugno Rettinghieri, con cui i sindacati sono furenti ovviamente perché ha messo le telecamere, ha dato un giro di vite e sta cercando di fare il suo lavoro, ha impedito a 850 dipendenti che avevano chiesto di fare gli scrutatori di farli, ma soprattutto nei giorni seguenti alle elezioni sono stati accusati in media 560 guasti al giorno, 100 guasti in più rispetto alle due settimane precedenti. È un picco paragonabile solo a quello che si registra all'ATAC in un giorno particolare, il 27 del mese, quando si paga lo stipendio, no? E quindi uno chiede: ma i sindacati dell'ATAC dove siete quando avvengono queste cose? Dove siete? No, loro non gliene frega nulla perché chiaramente sono collusi, mi querelassero magari anche qua, aspetto querela, sono collusi diciamo moralmente, non economicamente. Perché? Pensate un po' che succede. Il Vietnam che stanno creando al nuovo direttore generale Marco Rettinghieri, che ha messo mano... Cosa sta cercando di fare Rettinghieri? Di far rispettare le regole, che all'ATAC è una bestemmia, chiaramente, no? Allora, da una parte c'è Rettinghieri e poche altro, dall'altra parte, allora, i vertici dell'azienda hanno annullato una selezione interna per la promozione di 50 persone, avendola giudicata irregolare. E CGL e CISL e UIL hanno denunciato al prefetto di Roma un clima intimidatorio e antisindacale. CGL e CISL e UIL, dove eravate mentre capitavano ste porcate all'ATAC? Dove eravate? Ma non basta, perché c'è un caso pazzesco. Lui si chiama Fabio Milloc, dipendente dell'ATAC. Allora, è il segretario nazionale degli autoferrotranvieri UGL. Ha deciso di scioperare perché su molti autobus manca l'aria condizionata e i finestrini non si aprono. Con la stagione estiva gli utenti si potrebbero sentire male. Ok. Però a lui quello che manca non è l'aria condizionata, è la busta paga. Perché lui è stato sospeso dallo stipendio di maggio perché l'azienda lo ha ritenuto assente ingiustificato dal lavoro. Era infatti in un permesso sindacale che secondo i vertici dell'ATAC non gli spettava, ne è nata una contestazione ufficiale e magicamente ecco che lui dichiara lo sciopero. Sciopero inizialmente previsto dalle 8.30 alle 12.30, ma siccome la nazionale giocava alle 21, parliamo della prima partita della nazionale, lo sciopero magicamente slitta dalle 20.30 a mezzanotte e mezza e allo stesso tempo, per siccome gioca la nazionale, anche le assenze per malattia all'ATAC schizzano, vanno a 406 assenze per malattia contro una media normale di 150. Allora io non so se vincerà la Raggi o chi vincerà, però cara Raggi, caro Giacchetti, prima cosa, massimo appoggio al nuovo commissario dell'ATAC e andate ad azzerare tutto, andate, non la puoi salvare un'azienda in cui ormai l'andazzo è quello, azzera tutto. I sindacati non li voglio neanche, perché non li invita i sindacati? Perché guardi, ci tengo la mia salute, non voglio essere volgare in diretta e ho poca voce, va bene? Per cui io con quella gente non voglio nemmeno parlare, perché prima presentano un rapporto su come mai l'ATAC ha malversazioni, furti, buco economico e costa ai contribuenti in quel modo e che cosa hanno fatto loro a parte gestire le mense, i bar e i distributori automatici, poi hanno dignità di parola e possono raccontarmi perché secondo loro improvvisamente invece che applaudire a Rettinghieri che ha ridotto di un terzo il consumo di pneumatici, quindi i furti sul consumo di pneumatici, ridotto praticamente a zero i furti interni nei depositi, quindi dovrebbe fargli un monumento il sindacato, dicono che c'è un clima intimidatorio. Io con persone così non voglio parlare, voglio solo attaccarle e criticarle in radio, senza contraddittorio, finché non c'è una missione di colpa, va bene? Di colpa, non di colpa economica, ma di responsabilità, visto che eri lì e gestivi anche le mense. Meteo. Focus Economia. La classifica della settimana. Allora, andiamo al secondo posto. Scrive un ascoltatore, leggo solo, ci sono molti che sono d'accordo, per carità, dice proprio un bel modo di fare radio, perché ho detto che non inviterò mai i sindacalisti dell'ATAC, perché prima mi spiegano cosa, dove erano, cosa hanno fatto, come hanno contrastato le ruberie, la corruzione, il buco, il rosso, perché gestiscono le mense, i bar e quant'altro, perché accettano che gli autisti dell'ATAC guidino la metà delle ore degli altri autisti in Italia, perché accettano che ci siano 850 richieste per scrutinare e bloccando di fatto la municipalizzata dei trasporti di Roma e via così, perché assegnano rettinghieri dicendo che c'è un clima intimidatorio antisindacale solo perché il commissario ha messo mano ai furti e alla corruzione. Poi possono avere dignità di parola in questo programma, va bene? Se a lei non piace, perché dice che lei inizi a chiedere, non so se lei lavori all'ATAC, però prima io voglio un bel modo di fare il sindacalista, e ce ne sono tantissimi, devo dire, nel pubblico ma soprattutto nel privato, che fanno i sindacalisti veri, ok? E quindi non difendono i fannulloni, i ladri, i corrotti, difendono i lavoratori che ci mettono impegno e sono onesti. Poi ci sono dei sindacalisti che non distinguono tra merito e demerito, tra onesto e disonesto, per esempio all'ATAC. Aspetto, se avete voglia, le querele, ok? Ma non invito in trasmissione. Andiamo avanti, dai. Secondo posto della classifica, devo restare a Roma e dare un consiglio sempre a Raggi e Giachetti, perché ci sono tanti. Sapete quanto spende il comune di Roma per l'acqua delle fontane di Roma? Quanto potrà spendere l'acqua? Insomma, l'acqua è pubblica, è un bene pubblico, costa poco. Quanto spenderà per l'acqua delle fontane, che poi viene riciclata? No, non è che è acqua potabile, non beve l'acqua della fontana di Trevi, tranne qualche straniero ubriaco, no? Quanto spende all'anno? Spende 5 milioni di euro. 5 milioni di euro, anzi, per la precisione, 5.134.147 euro che il Campidoglio ha regolarmente liquidato alla municipalizzata, quindi alla sua società Acea, per la bolletta inviata nel 2012. Pensate un po', allora, sono tre bollette mostre, perché? 234.000 euro di acqua per la fontana alla salita del Pincio, 250.000 euro all'anno di acqua per Piazza Farnese, 300.000 euro per l'acqua che, poi ti ripeto, non è che si beva, non è pubblica, cioè la ricicla, per la fontana di Trevi. Piazza Navona ammonta complessivamente a 500.000 di euro per l'acqua di Piazza Navona. Ma ragazzi, ma ve la portiamo naturale, con le bolle, cioè liscia, gasata, come cavolo volete, ma poi con quella cifra lì la riempi di vino, la riempi di Amarone, di Barolo, di Brunello, ma mettete il Brunello, il Barolo, l'Amarone, almeno qua tutti quanti festeggiamo. 500.000 di euro nella fontana, per l'acqua della fontana di Piazza Navona, e le due fontane laterali sono un'altra botta da 100.000 euro, cioè 600.000 euro in tutto, più le fontanelle di Roma, costo totale 5.134.147 euro. Sì, lo so, anch'io ero allegro perché ho visto l'Italia vincere nel finale, e anche a me sta rovinando la vita la classifica e l'umore la classifica. Cosa ci posso fare? Lo dico a un ascoltatore, sono d'accordo con lei. Ultimo, andiamo al nostro vincitore. And the winner is... la gestione del CNEL, dove oggi la Procura della Corte dei Conti, sezione Lazio, ha chiuso l'indagine e ha chiesto un danno e ha stimato un danno erariale per 800.000 euro e ha chiuso l'indagine sugli ex vertici del CNEL, che è il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. Rinvio a giudizio riguarda 15 persone che tra il 2008 e il 2012 hanno ricoperto il ruolo di vertice nell'organo di rilievo costituzionale, che tra l'altro, secondo me, una delle cose buone del referendum è proprio che elimina il CNEL. Poi non voglio parlare del resto della riforma costituzionale, ma almeno del CNEL sì. Allora, all'ex presidente Antonio Marzano, che si è dimesso un anno fa, poi l'utilità del CNEL, lasciatemelo dire da chi si occupa di economia, è pari a zero, meno di zero. Giudizio del tutto personale. Ma detto ciò, uno può ritenere che invece il CNEL sia utilissimo, va bene. Ma a Marzano è stato contestato un danno erariale da 140.000 euro. La cifra più alta, 200.000 euro, riguarda l'ex segretario generale Michele Dau. 108.000 euro vengono contestati a Salvatore Bosco, che nel frattempo è diventato presidente del CNEL. Che il CNEL c'è ancora. L'inchiesta era partita dopo alcuni articoli giornalistici. Questa dimostrazione che ogni tanto le nostre denunce, noi raccontiamo cose già uscite sui giornali, lo spiego sempre. Barbara Bianchi, Mano del Corno raccolgono queste notizie e scegliamo le migliori. Ma ogni tanto le denunce servono, in questo caso sono servite, alcune denunce giornalistiche avevano segnalato le irregolarità. La Guardia di Finanza è andata a controllare contratto per contratto i vari 100 incarichi esterni, le consulenze facili, cosiddette. In un primo momento il danno erariale era stimato in 2 milioni di euro, poi si è ridimensionata la cifra perché sono state considerate legittime le cosiddette dirette collaborazioni. Faccio notare che nel periodo 2008-2010 il CNEL aveva speso quasi 19 milioni di euro, nei tre anni successivi era sceso a 12 milioni e 700 mila euro, proprio perché avevano tagliato le consulenze, poi hanno tagliato proprio i finanziamenti e lì è iniziato il calo continuo. Però 800 mila euro di danno erariale, si beccano al nostro primo posto, complimenti agli ex vertici del CNEL. Riccardo Donadon, presidente e amministratore delegato di H Farm, buonasera. Buonasera. Come sta? Bene, grazie. Anche dopo la classifica? Quale classifica? Ah, non ha sentito la classifica degli sprechi? Dov'era lei? Non era in collegamento in radio? Sì, ero in collegamento, sì. È uscita una classifica anche sul nostro mondo, che siamo arrivati al 20° posto tra gli incubatori in Europa. Sono contento per lei, ma sono più arrabbiato per la classifica. Sì, mi dispiace. Però la nostra è andata bene, siamo ma, i primi italiani. Donadon, non me ne frega nulla della vostra, le ho fatto una domanda sulla classifica. Allora, le sembra normale un paese così, Donadon? No, assolutamente allora, no. Su questo ci siamo, ci risentiamo dopo il traffico. Focus Economia. :17:51 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, come sempre, dopo la classifica, per ripulirci un po' anche l'umore e disintossicarci, invitiamo una startup, cioè chi ha lanciato un'iniziativa imprenditoriale in questi anni di crisi, ha volutamente, per dimostrare che c'è un'Italia che si rimbocca le maniche e accetta la sfida anche del cambiamento in atto. Ogni tanto invitiamo invece chi fa, diciamo, piattaforma di aggregazione per le startup. È stato il caso di Digital Magics e adesso è il caso anche di H Farm. Di nuovo buonasera Riccardo Donadon. Buonasera. Allora, voi siete una piattaforma digitale e incubatore, no, di startup, creato nel 2005. Siete stati il primo, sì. se non ricordo male. Avete sede a Venezia, avete investito 17 milioni di euro. Con lei più che parlare, e poi vi siete anche quotati sul segmento AIM della Borsa Italiana a novembre del 2015, capitalizzate 70 milioni di euro. Lo dico perché con lei più che parlare di una singola startup vorrei capire qual è, perché molti ce lo chiedono, la differenza tra le belle idee e quindi insomma, il progetto in sé, la loro finanziabilità e il loro effettivo successo poi sul mercato, visto che voi siete quelli che hanno più esperienza, diciamo, storica. Prego, Donadon. Ma allora, di belle idee ce ne sono tantissime, poi riuscire a realizzarle in Italia è complicato perché comunque la parte finanziaria non è ancora all'altezza di quelli che sono gli investimenti necessari per portarle a successo, soprattutto se parliamo di cose consumer. Quindi quello che si dovrebbe fare, che noi cerchiamo di fare tutti i giorni, è cercare di finanziare delle iniziative che vadano a generare un'opportunità di disruption o di business nell'ambito di quelli che sono dei modelli di eccellenza che abbiamo in Italia, in modo che con le capacità di produzione, commercializzazione e comunicazione delle grandi aziende italiane o delle eccellenze italiane, la nuova idea riesce subito ad avere quella leva finanziaria e di comunicazione che gli consente di aiutare l'azienda stessa, ma anche di decollare lei. Perché lei sa che la critica è, sì, belle le start-up, dico, come sempre faccio l'avvocato del diavolo, però poi sì, se vai a vedere quante resistono sul mercato, adesso noi abbiamo sempre portato casi di gente che stava fatturando e in molti casi era già a break-even. Ecco, perché sono pochissime? Sono pochissime perché noi abbiamo investito all'anno scorso, alla fine abbiamo chiuso a 20 milioni, 11 anni di investimento, più di 100 iniziative, una media di 200.000 euro a iniziativa. Non sono sufficienti, con 200.000 euro non fai partire una piccola impresa. Una piccola impresa innovativa che cerca anche di conquistare immediatamente il mercato su un modello nuovo. Sono troppi pochi soldi. L'Italia l'anno scorso ha investito 74 milioni di euro, gli Stati Uniti ha investito 74 miliardi. Per cui se tu vuoi fare qualcosa nell'ambito dell'innovazione, tu consumer, quindi verso il consumatore finale, devi mettere dei soldi molto importanti. I round devono essere da 10 milioni su un'iniziativa. Mi scusi, Donadò, ma per far capire a tutti, la sua critica è al privati che ci mettono pochi soldi, diciamo, posso sintetizzare? Allora, io non faccio critiche perché alla fine, essendo su questo mondo da 20 anni, l'ho visto crescere e vedo anche i miglioramenti. Negli ultimi anni ci sono state tante cose molto positive. Io poi faccio parte della task force che aveva voluto il ministro Passera, abbiamo anche sistemato tutte le regole, cominciano ad esserci delle cose molto importanti anche in Italia. Solo che siamo abbastanza indietro, sicuramente dobbiamo investire tantissimo di più, però la via italiana di investire sulle iniziative deve passare tramite il fatto che capiamo cosa serve all'industria italiana, all'eccellenza italiana, e aiutiamo i giovani a trovare delle idee che possano fare leva su quelle che sono già le eccellenze nostre, perché allora lì, se investi sul food, investi sul fashion, investi sulle cose che già sono forti dell'Italia, anche dall'estero vengono a cercarti perché ti riconoscono immediatamente di essere credibile. Quindi lei dice un maggior collegamento, cinghie e trasmissione, tra le esigenze reali delle imprese, ma soprattutto, aggiungo, cioè lo diceva anche lei, i campi d'eccellenza del Made in Italy e le start-up, perché tu vieni qua e se scolleghi, diciamo, la tua idea imprenditoriale da quello che è la realtà e i bisogni, le necessità, i punti di forza del paese, poi hai difficoltà a farla sviluppare. Donadò, in bocca al lupo, perché comunque voi fate un lavoro importante sul territorio, come anche altri, perché appunto date la possibilità di creare la piattaforma, ma è importante il suo appello a chi ha intenzione di lanciare una startup: cercate di capire cosa serve veramente e dove ci sono punti di forza nelle startup italiane. Grazie anche a Riccardo Donadò, presidente amministratore delegato di H-Farm. Andiamo su GR24, accetto la critica dell'ascoltatore che dice che gli ho rovinato la giornata perché pensavo che non avrei parlato della partita e se l'era registrata e adesso sa il risultato. Questo veramente mi dispiace tantissimo e non sto scherzando. GR24. Il segnale orario vi è offerto da Assicom, vendi bene e incassa meglio. Marketing, informazioni commerciali e recupero crediti. Assicom.com. Quale sarà il futuro di Milano? E di Roma? E Torino? Napoli? Bologna? Il 19 giugno, dalle 23, non perdere lo speciale ballottaggi delle elezioni amministrative 2016, con le voci dei protagonisti e gli approfondimenti dei nostri inviati, per seguire in tempo reale l'andamento degli scrutini. E lunedì 20 giugno, appuntamento nei giornali radio per l'aggiornamento in diretta dei risultati. Segui le amministrative di Radio 24. Dai valore al tuo voto. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso commentiamo la pagina di Borsa e poi arriviamo anche alla giornata più importante del vertice italo-russo all'interno del forum internazionale russo, che ha visto la presenza appunto di migliaia di imprese e di imprenditori. L'incontro di oggi tra Vladimir Putin e il presidente del Consiglio italiano Matteo Renzi. Dicevo, la Borsa oggi giornata più che positiva, soprattutto a Milano, come frutto di un rimbalzo dei titoli bancari, rimbalzo che in alcuni casi è stato fortissimo, a dimostrazione di quanta speculazione ci fosse in questi giorni, scusatemi, utilizzando come scusa la Brexit per vendere in maniera indiscriminata e senza, diciamo, motivi titoli bancari, altrimenti non si giustifica perché improvvisamente oggi il Banco Popolare guadagni il 12,90% senza notizie di mercato, UbiBanca il 9,90%, Popolare Emilia Romagna il 9,90%, Popolare Milano il 9,80%, Unicredit il 9,44%, Monte dei Paschi il 6,5%, Unipol il 6,5%, ancora Intesa San Paolo il 4,60% di rialzo, Unipol sai il 4,5%, Mediobanca il 4%. Bene anche i petroliferi, cito su tutti Saipem più 5,46% ed Eni più 3,93%, bene Telecom più 3,90%. E partiamo da Telecom Italia con Eleonora Micheli, Radio Corri Sole 24 Ore. Buonasera Eleonora. Buonasera. Telecom. Sì, Telecom si è distinta sin dalle prime battute di questa mattina, soprattutto dopo che il Messaggero ha indicato che nel primo semestre si farà già sentire la cura dimagrante sui costi del nuovo amministratore delegato Flavio Cattaneo. Infatti l'EBITDA dovrebbe essere migliore rispetto a quello dell'anno scorso, che si era attestato a 3,6 miliardi di euro. Poi peraltro proprio oggi l'azienda ha comunicato che il consiglio di amministrazione per l'approvazione della semestrale è stato anticipato da inizio agosto a fine luglio, e quindi questa è una notizia positiva. Il 26 luglio è una notizia positiva, è come significare che evidentemente Cattaneo e i manager del gruppo sono sicuri anche dei conti che andranno ad annunciare. Allora, giustamente non ho detto gli altri indici: Parigi più 1%, Francoforte più 0,80%, Londra più 1,20%, l'America invece è in negativo adesso, meno 0,35%. Euro su dollaro quota 1,1260. Ancora, per quello che riguarda da questo punto di vista l'andamento dei listini e dei singoli titoli, le banche, Leonora, se sei d'accordo, le archiviamo con la premessa che ho fatto, perché insomma mi sembra che sia un rimbalzo fortissimo in alcuni casi. Se c'è qualche notizia di mercato che mi è sfuggita, però aggiungila tu. No, l'unica notizia è che Unicredit, come si sa, si aspetta la nomina dell'amministratore delegato, che dovrebbe arrivare probabilmente anche a breve, a stretto giro. La prossima settimana dovrebbe essere presentata la lista dei nomi. A far pressione oggi si può dire è stato anche Padoan, certo, che ha detto che bisogna decidere in tempi stretti, e comunque ha detto che i nomi sul tavolo sono eccellenti. Andiamo avanti, bene oggi sia Fiat ha confermato i target, gli obiettivi 2016, il secondo semestre in linea con le attese, va bene ma un po' meno bene rispetto al mercato, Fiat Chrysler infatti guadagna il 2,50%, benissimo anche Moncler, più 4,80%. Sì, per quanto riguarda FCA va detto che Marchionne si ha confermato i target per fine anno. D'altra parte, da ieri che circola questo report di Citigroup un po' critico, gli analisti avevano puntato l'indice proprio anche sull'andamento del business del gruppo nell'area nafta, e non a caso Marchionne oggi ha detto che dovrà essere riequilibrato il business dall'area nafta invece ai paesi europei e medio orientali. In più ha anche detto che bisognerà vedere cosa succederà nell'area nafta, cioè ricordiamo Canada e Messico, nel caso in cui in America vincesse le elezioni Donald Trump, che si sa che ha fatto certe affermazioni, quindi c'è in effetti un po' di allarme su quello che potrebbe avvenire, detto anche dallo stesso amministratore delegato, e ciò quindi spinge la cautela. Per quanto riguarda le aziende del lusso, stanno per partire le sfilate milanesi maschili, proprio domenica ci sarà la sfilata sia di Moncler sia di Ferragamo, che entrambi i titoli hanno messo a segno un progresso superiore al 4%, probabilmente emergeranno delle indicazioni da parte di Ruffini e da parte dei manager di Ferragamo sull'andamento di quelle che sono state le vendite fino a oggi. Ok, ancora sui titoli invece volevo far notare che oggi c'è il Consiglio di Amministrazione per su Rizzoli Corriere della Sera, che dovrebbe esprimere il giudizio su Bonomi. Ci sono novità? No, in questo caso non ci sono novità, la vera novità però è che è stato convocato il consiglio di amministrazione di Cairo, fino a poco fa non c'era certezza, per rilanciare, è quasi come a questo punto non c'è certezza sul rilancio, ma il fatto che sia stato convocato oggi, ultimo giorno in cui effettivamente Cairo può rilanciare, fa presupporre che a questo punto Cairo alzi la posta. Se no la domanda è perché cavolo convochi un consiglio di amministrazione se non è per rilanciare. Adesso non abbiamo ancora la certezza, diciamo, effettiva, ma tutto porta ad andare a pensare quello. Tra i migliori e peggiori in assoluto, Cassa di Risparmio di Genova, a dimostrazione oggi dell'incredibile rimbalzo di tutti i bancari più 18%, il Banco Popolare più 12%, dicevamo, il Credito Valtellinese più 11,80%, Invest più 12,30%, Biancamano più 11,30%, Astaldi più 10,50%, Safebank più 10%, Ubibanca più 9,90%. Il fronte opposto invece è Cementir meno 4,80%, Key Group meno 4,50%, Nokia meno 4,50%, D-Mail meno 3,20%, P-Quadro meno 2,50%. Grazie, buon fine settimana a Eleonora Micheli e ai colleghi di Radio Corriere Sole 24 Ore. Andiamo sul traffico e poi ci spostiamo a San Pietroburgo. Focus Economia. Allora, 18 e 17 minuti, ci colleghiamo subito con San Pietroburgo, dove c'è la nostra Laura Bettini. Sta iniziando, se ho ben capito Laura, in questi istanti la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Laura. Sta cominciando, forse sentite anche in sottofondo le voci appunto che presentano i due ospiti, che sono ovviamente il Presidente Putin e il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, che si sono già incontrati nel corso della plenaria questo pomeriggio. Con un discorso fiume il Presidente russo ha ripercorso un po' tutti i temi del storici di questo forum, che è il 20° che viene ospitato qui a San Pietroburgo, insistendo particolarmente ovviamente sull'attuale situazione di difficoltà nei rapporti tra Russia e Unione Europea. Sentiamolo. A che cosa serviva la rivolta in Ucraina? Io l'ho già detto molte volte, la situazione interna in Ucraina è abbastanza difficile. È molto probabile che l'opposizione, che oggi è al potere, sarebbe arrivata al potere anche con i metodi democratici, e in questo caso noi avremmo collaborato con loro, così come noi avevamo fatto col potere che c'era stato prima del presidente Yanukovych. Invece no, hanno voluto proprio quello che è successo, hanno voluto provocare una guerra civile, spaventare i russi della Crimea e dell'est dell'Ucraina. E poi, quando questo era già successo, quando noi siamo stati costretti a intraprendere delle misure per proteggere determinate categorie della popolazione ucraina, dopo si è deciso di continuare a fomentare la tensione. Secondo me ciò viene fatto anche per giustificare l'esistenza dell'Alleanza Atlantica. Ci vuole un nemico esterno, perché altrimenti a che cosa servirebbe questa struttura? Il Patto di Varsavia non esiste più, non esiste neanche l'Unione Sovietica. Contro chi opererà questa, la NATO? Se noi continueremo a ragionare in questa logica, se continueremo a cercare di spaventare l'uno l'altro, in questo caso sì, non posso escludere che un giorno o l'altro si arrivi alla guerra fredda. Ecco, in questo momento si stanno firmando degli accordi che fanno parte di quel pacchetto di cui abbiamo parlato nel corso del collegamento di ieri, del valore di 1,4 miliardi. Tra pochissimo poi parleranno lo stesso Putin e lo stesso Renzi, ma va ricordato che le buone relazioni, diciamo, che Renzi vuole tessere con la Russia sono già state sottolineate nel corso della plenaria di oggi, quando il Presidente del Consiglio ha dichiarato fuori dalla storia la guerra fredda. Sentiamolo. Noi abbiamo bisogno di considerare che la parola guerra fredda non può stare nel vocabolario del terzo millennio, perché se il termine guerra fredda viene utilizzato oggi è fuori dalla storia, è fuori dalla realtà e prima ancora che essere ingiusto è inutile. Noi abbiamo bisogno che Europa e Russia tornino ad essere degli ottimi vicini di casa. Con i vicini di casa sappiamo che si può discutere, che ci può essere qualche problema, ma il grande elemento di forza della vicenda ucraina è che stavolta l'accordo c'è, perché il protocollo di Minsk è lì. Noi stiamo chiedendo che ci sia l'implementazione totale. Renzi ha aggiunto che questa implementazione deve essere fatta da entrambe le parti, quindi sia da parte ucraina, dove vanno rispettati gli impegni presi per quel che riguarda la riforma della Costituzione, la riforma elettorale, i diritti delle minoranze, e sia da parte russa per tutto quello che riguarda l'area est ucraina, il Donbass. E così ancora il Premier. Dobbiamo lavorare perché prevalga il buon senso e perché il rispetto degli accordi sia la condizione per poter tornare alla piena ed effettiva normalità delle relazioni. In questo scenario il ruolo dell'Italia è un ruolo sicuramente legato agli aspetti economici. Non voglio che i miei amici imprenditori italiani abbiano dei dubbi su questo. Siamo naturalmente in prima linea per sostenere la presenza non soltanto in Russia, ma anche in Kazakistan, di tutto ciò che può essere fatto insieme. Noi siamo molto affezionati al nostro Made in Italy, ma ci piace l'idea del Made with Italy, dal punto di vista dell'agroalimentare, dell'ingegneria, dell'innovazione, della tecnologia. Tuttavia, mi permetto di dire che non è questo il punto centrale. Allora Laura, chiaramente abbiamo sentito la versione di Putin, per dirla così, sulle vicende ucraine, poi sappiamo che non è esattamente andata come pensa lui, però la Russia difende ovviamente i suoi interessi, ce l'ha con la NATO, Renzi ha detto lasciate stare il termine guerra fredda, abbiamo ascoltato, cerchiamo di ristabilire rapporti di buon vicinato, ci sono gli accordi di Minsk. Venendo alla parte economica, adesso che tu già ci anticipavi che stanno per firmare le lettere d'intenti, gli accordi annunciati ieri, Laura? Stanno firmando, appunto, le voci che sentite in sottofondo riguardano proprio coloro che sono coinvolti nella firma di questi accordi. Mm-hmm. E sotto appunto lo sguardo sia di Renzi che di Putin, che tra pochissimo vedremo se riusciranno e come riusciranno a riaffermare questo ponte che vogliono costruire tra la Russia e l'Italia e la Russia e l'Unione Europea, ovviamente ciascuno mantenendo le posizioni di partenza ma trovando un punto di confronto. Allora, nel ringraziarti, perché mi rendo conto che adesso nel momento in cui inizia a entrare nel vivo anche la conferenza stampa dobbiamo staccare il collegamento, nel ringraziare Laura Bettini, che poi risentiremo nel corso dei nostri GR24, appunto anche per ascoltare le ultime dichiarazioni di questo forum, che non è, lo dico a chi scrive, un forum italo-russo, in realtà è una cosa un po' più articolata e ampia, perché il forum è il forum internazionale che viene indetto in Russia e si tiene a San Pietroburgo, è un forum che prevede, proprio per far capire perché dell'importanza anche del fatto che l'Italia sia paese e ospite d'onore, ha dei numeri assolutamente incredibili dal punto di vista, diciamo, delle presenze e degli accordi che vengono siglati. Intanto grazie a Laura Bettini. E allora ricordiamoli, visto che siamo in chiusura del programma, questi accordi e l'importanza di questo forum. Allora, intanto chi partecipa, perché sono oltre 10.000 imprese da tutto il mondo, per un capitale controllato da queste imprese pari a 8.000 miliardi di dollari. Ci sono 2.000 giornalisti accreditati, 120 paesi partecipanti e presenti, per fortuna, oltre 400 società italiane. Le lettere d'intenti, gli accordi che adesso vengono formalmente ratificati e firmati sono già stati, come ricordava la nostra Laura Bettini, annunciati ieri. Sono 9 tra accordi e lettere d'intenti più un pacchetto di intese, complessivamente il controvalore di 1.400 milioni. Le due delegazioni di imprese che adesso stanno firmando quindi 8 più 1 accordi, soprattutto nel settore dell'energia, come per esempio l'intesa tra la società russa Rosneft e Novatek con Eni e Saipem per i progetti riguardanti il gas naturale liquefatto in Russia. E ancora oggi Putin ha ribadito che l'Europa resta il primo partner commerciale per la Russia. L'Europa è l'Europa, ha detto anche in merito alla Brexit, non sono pessimista, penso che non finirà mai, ha lodato Renzi, l'Italia può andare fiera di un premier così, poi non so se questo sia un endorsement visto che Putin o il bacio della morte come si dice, comunque questa è la lode che ha fatto Putin a Renzi. E per quello che riguarda invece l'altra parte degli elementi economici, il ministro Calenda, che è lì presente, Carlo Calenda, ha detto sostanzialmente che il Made with Italy, che quanto abbiamo raccontato ieri, cioè fare le cose congiuntamente con l'Italia, non solo la Russia è molto interessata ad avere produzioni italiane in Russia, il Made with Italy va benissimo, dobbiamo procedere anche col Made with Italy in Italia, quindi attraendo investimenti russi in Italia. La Russia ci ha dato piena disponibilità a sviluppare nuovi corridoi energetici, ha continuato Calenda, mentre Mauro Moretti, l'amministratore delegato di Leonardo Finmeccanica, ha annunciato che oggi verrà chiuso con Rostec un accordo proprio sugli elicotteri Augusta Westland 189, il nostro, aggiunto Moretti, il nostro gioiello elicotteristico. Allora, sto per salutare, ma devo dare una notizia che riguarda Veneto Bank, perché insomma i grandi soci invocati a sottoscrivere l'aumento di capitale dal presidente dell'associazione per Veneto Bank, Bruno Zago, non si vedono alla porta. Praticamente l'agenzia, battuta pochi minuti fa, sottolinea come a 3 sedute dal termine per la sottoscrizione dell'aumento di capitale di Veneto Banca, praticamente hanno aderito solo lo 0,3%, cioè sono arrivati ordini di acquisto per titoli per appena 3 milioni di euro. Quindi andrà a finire, salvo colpi di scena da escludersi, però insomma, teoricamente da escludersi, andrà a finire esattamente come Popolare di Vicenza, cioè non vi sono sottoscrittori dell'aumento di capitale e il Fondo Atlante si comprerà anche Veneto Banca, e a questo punto inizia a avere qualche problema anche di liquidità, di disponibilità di cassa, visto che insomma i due sborsi, ammesso, quanto sembra probabile, anche quello per Veneto Banca, pesano sulla disponibilità del Fondo Atlante, ma ne parleremo la prossima settimana. Intanto un ringraziamento come sempre a Mauro Del Conno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione e in regia. Un augurio di buon fine settimana a voi in ascolto, soprattutto per chi dovrà passarlo lavorando. Ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.